buongiorno a tutti. Bella regà, pure oggi come ieri lui arriva come i bersaglieri, lui comincia il suo cammino, signore e signori, Mr. Gigi D'Agostino. Senti che roba va. Gigi D'Agostino. Non è che siamo qui a snocciolare, dagli la mixata, vai G. Cammino del Gigi D'Agostino. Se volete scrivermi 333 64 67 662. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare al ritmo del lento violetto, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare, perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirige Gigi D'Agostino. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano questa sera al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza, mentre domani, domenica 12 novembre, discoteca Hotel Ambasciatori, Calitri, Avellino. M2O. Volevo dedicare a Jessica di Arona la canzone che dice che se per gli altri sei un sogno, io di te ho bisogno. Sì. Bah. E farle sapere che le voglio un mondo di bene. Ok. Strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te, credo in quel che ho provato ed è quello che vedo solo in te. Sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se qualcuno dicesse che tu sei solo un sogno, io ti prego stai con me, perché di te ho bisogno. Se non credi in questa storia, domandati perché. Ricerca nella memoria quello che fu di te. Saldi ai vostri sogni, perché se i sogni muoiono, la vita è come un uccello dalle ali spezzate che non può più volare. Di Langston Hughes. Ilenia, della provincia di Udine. Anico di Carrara. Ti penso sempre, anche dopo quello che è successo. Chiamami, ti prego. Anna da Taranto. Il cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Dai più valore alla cultura, gadieni, si musale.

Serena, Cinzia, Donatella e Silvia. Serena, Cinzia, Donatella e Silvia. Serena, Cinzia, Donatella e Silvia. Serena. La cosa? Spettacolo. Dall'autostrada Firenze Mare. Siamo stimando che sta suonando Gigi D'Agostino. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Cammino di Gigi D'Agostino, una fragranza per l'ambiente. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18 su M2O. Niente che roba, va. E Gigi D'Agostino vi aspettano questa sera al Papito Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza, mentre domani, domenica 12 novembre, discoteca Hotel Ambasciatori, Calitri, Avellino. Il cammino di Gigi D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. Sta radio ti arriva in destro. Alle ore 18 sono il maestro. Ragazzi del Free Time, presenti al Papido. Davide Santino, lenti, violenti. È normale, sono presenti. Bravi, bravi, bravi. Davide Di Paola. Mm-hmm. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Tratta artisticamente la sua vita, il suo cervello e il suo cuore diventano una cosa sola. Oscar Wilde. Ma non nel senso che diventano Oscar Wilde, si era capito? No, vabbè, mi piace essere preciso. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. È a vostra disposizione. 333-64-67-662. Ciccino mio, la vita è una magia, ma l'incantesimo più bello è stato incontrarti. Ti amo da impazzire, la tua patatona. E Gigi D'Agostino. La musica ben detta. We'll be right back. svegliata da poco. Sono sui libri, come ogni giorno, con Gigi D'Agostino nelle orecchie, nelle vene. Mi fai ascoltare The Riddle? Sì. Diana, da Bari. Sono cresciuto a pane, vino e Gigi D'Agostino. Yes. Ti prego, Gigi, fammi risentire un classico, The Riddle. Certo. Beve 86. E noi suoniamo la versione originale. Che yeah. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Buonasera, vorrei dedicarmi lo sbaglio perché ho fatto lo sbaglio di innamorarmi dell'unico prete casto e serio che ci sia in giro. Sì, vabbè. Grazie e buon lavoro. Susi. Lo sbaglio, mi piace da matti, è una piccola dedica ad un nuovo 46enne, Francesco da Como. Volevo salutare mio papà Giuseppe e dedicargli lo sbaglio, da sua figlia Jessica di Barni. Lo sbaglio non ci starebbe male. Un bacio a Cristina. Mauro 69 da Milano. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita. Beh, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando mi sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, sai per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire, diamoci un taglio.

guarda invece noi. D'Agostino vi saluta tanto tanto tanto tanto tanto tanto.